Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e ben ritrovati alla decima puntata del Nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi. Con me c'è Raf che saluto. Ciao Raf. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Oggi parleremo con il nostro ospite di lavoro e fascismo. Andremo così ad approfondire come le politiche fasciste siano state la dimostrazione di tutelare la sola classe dominante e privilegiata a discapito dello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte le categorie e di come queste politiche siano state poi ereditate dalle nuove politiche di destra. Andremo così a indagare un po' la storia del rapporto tra fascismo e lavoro e lo facciamo con il nostro ospite, che è Antonio Loffredo, un carissimo amico della radio che abbiamo già intervistato ad aprile dello scorso anno per uno speciale sul lavoro e salari minimi. Antonio è giurista e docente di diritto del lavoro all'Università di Siena. Io lo saluto. Ciao Antonio. Ciao Salvatore, ciao Raf, ciao a tutte e a tutti e grazie per l'invito. No, grazie a te per partecipare a questo nostro nuovo approfondimento. Partiamo con la prima domanda, cioè partiamo proprio dal ventennio, perché durante il ventennio ci fu l'annientamento e poi la soppressione delle tradizionali organizzazioni sindacali e la violenza squadrista si scatenò contro le leghe, le camere del lavoro, le cooperative, gli uffici di collocamento. E sul piano sindacale, con gli accordi del 1925, Confindustria e Sindacato Fascista si riconosceranno reciprocamente quali unici rappresentanti di capitale e lavoro. E infatti il fascismo aveva abolito il Ministero del Lavoro, istituito nel 1920, e l'aveva sostituito con quello dell'economia. Il lavoro diventava così una variabile dipendente dell'economia. E nonostante poi la giusta morte del sindacalismo fascista, quanto quel legame tra fascisti, neofascisti ed estrema destra è legato oggi al capitalismo industriale e alla finanza? Domanda bella, grossa. Allora voglio fare una premessa per giustamente chi mi ascolta, per sapere, insomma, voglio far sapere che io non sono uno storico, vorrei partire da questa cosa. Quindi sono uno studioso di diritto del lavoro, diciamo, contemporaneo, se ancora esiste il diritto del lavoro contemporaneo, però come un po', diciamo, parte del mio studio e un po' anche perché le persone con cui ho studiato hanno sempre privilegiato un approccio storico. Io poi con gli anni mi sono molto, molto, cioè, trovato molto affascinante lo studio della storia e della storia del diritto del lavoro, pur se da studente ne facevo volentieri a meno. Però per il diritto del lavoro vi dico, l'ho trovato particolarmente interessante perché io mi sono avvicinato al diritto del lavoro come molti dei miei colleghi e colleghe di allora, oggi sempre meno, con la speranza, no, l'obiettivo di voler leggere e studiare una materia che si preoccupasse tendenzialmente di tutelare il lavoro, chi il lavoro lo presta, no? Chi sul salario, come diceva Rino Gaetano. Però lo studio della storia mi ha già insegnato una cosa, io questo lo voglio dire in premessa, anche se, diciamo, apparentemente non c'entra molto con la domanda che mi avete fatto. Il diritto del lavoro ha delle origini che sono piuttosto, diciamo, complesse, è una materia moderna, cioè rispetto al resto del diritto, è una materia che ha almeno i 2 secoli. Però il diritto del lavoro non nasce con l'obiettivo di tutelare le persone che lavorano. Non nasce con questo obiettivo. Questo è importante per capire poi che è successo dopo, no? Il diritto del lavoro nasce per garantire una pace sociale in un momento storico in cui le forze di chi si stava unendo in maniera forte, sia a livello sindacale, sia a livello i partiti politici, queste forze stavano cominciando a diventare pericolose, stavano cominciando a diventare forti e quindi il diritto sopraggiunge con quale obiettivo? Con l'obiettivo di fare in modo che resti il più possibile equilibrata questa questa situazione, per evitare, alcuni dicono, che ci sia la rivoluzione, no? Allora questo è importantissimo da capire, perché ci porta poi piano piano a interpretare, secondo me, nella maniera più corretta quello che poi è successo nel ventennio fascista in Italia. Perché? Perché se uno pensa, no, che il diritto al lavoro nasce e si sviluppa in maniera, come dire, evolutiva e progressista, che quindi inevitabilmente doveva portare a sempre maggiori difese, in realtà sbaglia proprio di prospettiva, perché a un certo punto arriva a un momento in cui ci sono delle discontinuità o delle micro discontinuità, alcune sono più visibili, altre meno, che portano a delle interruzioni, a dei passi indietro anche importanti, come stiamo vivendo adesso, no? Questo un po' per rispondere poi dopo ci torneremo certamente, però per rispondere alla tua suggestione finale, no? Alla modernità, cioè, quello che stiamo vivendo adesso, ovviamente, per chi lavora, per le persone che lavorano e per chi le rappresenta, quindi per le organizzazioni sindacali in particolare, è un momento di grossa difficoltà nel quale si trova facendo dei passi indietro. Questa cosa, nel momento storico in cui diciamo, c'è stato il passaggio dalla cosiddetta Italia liberale, a me era sempre fastidio chiamarla così, perché era molto poco liberale quell'Italia lì. Però insomma, nel passaggio da quello che storicamente viene individuato come l'Italia liberale all'Italia fascista, in realtà non c'è un salto. Non c'è un salto perché l'Italia liberale, che si era vista costretta, no? Tutti i governi, diciamo così, dalla fine dell'Ottocento fino all'avvento del fascismo, tutti i governi che avevano dato qualche piccolo contentino alle masse che stavano lottando in maniera anche molto, molto dura e violenta, più violenta era stata ovviamente la reazione. Quelle masse, per pacificarsi un poco, avevano bisogno di vedere, no, garantiti un minimo dei diritti che loro richiedevano. E anche quando questo era avvenuto prima del fascismo, sempre, comunque era avvenuto in maniera molto, come la vogliamo definire, poco trasparente. Vi faccio un esempio che è importante per capire la questione dello sciopero, e quindi il rapporto tra sciopero e fascismo. Lo sciopero non era un reato durante l'Italia liberale. Il codice penale Zanardelli lo individuava come individuava come reato lo sciopero solo quando si sviluppava attraverso violenza o minaccia. Bene, e quindi in teoria si era liberi di scioperare. Liberi vuol dire che io potevo scioperare, ma ovviamente il datore di lavoro mi poteva licenziare, o comunque mi poteva sanzionare, o chiedermi peggio ancora il risarcimento dei danni. Ma comunque c'era questa libertà. Ma che libertà era? Una libertà nella quale se io faccio minaccia o violenza diventa reato. Ma io oggi non riesco a immaginare uno sciopero in cui non c'è, e stiamo parlando in un periodo storico in cui si sciopera poco e male, uno sciopero nel quale non c'è un coro, un canto, uno slogan nel quale si minaccia qualcosa. Ma anche, voglio dire, in maniera assolutamente fisiologica, anche negli scioperi meno violenti c'è necessariamente un passaggio di questo. Lo sciopero è conflitto, e quindi nel conflitto ci sono le minacce, le violenze, è normale anche in una società come la nostra. Figuriamoci all'epoca. E quindi tutti gli scioperi che si facevano erano molto spesso soffocati nelle violenze già allora. E allora questo mi porta alla domanda che mi facevi, no? Le violenze squadriste, no? Prima e poi subito dopo anche l'avvento del fascismo e durante il ventennio. Quelle violenze a un certo punto vengono in qualche modo promosse o quantomeno sopportate, ma con grande sopportate e supportate dai governi precedenti al fascismo. Perché Cavallate. eh? cavallate. Certo, per una vallata, esatto, perché in quel momento storico le organizzazioni sindacali e il nascente Partito Comunista e poi il Partito Socialista erano un pericolo, costituivano un pericolo per la società di quel momento, ovvero ovviamente per chi comandava quel periodo storico. E quindi quando ci si rende conto che le violenze delle forze armate, delle forze dell'ordine, non sono più ammesse nella mente delle persone, no? Dei cittadini e delle cittadine italiane, allora si permettono di come dire, fomentare, parlare delle violenze private che arrivano da questo movimento che conosciamo bene, no? Che poi diventerà il fascismo. Quelle violenze ovviamente non sono mai casuali. Non si colpisce a caso, ovviamente ci stanno quelli che i fascisti che colpiscono chiunque nel momento in cui gli passano per la testa, ma le violenze sono quasi sempre ragionate, riflettute e c'è un disegno dietro. Solo che questo disegno a un certo punto sorprende anche chi queste violenze, come dicevi tu, le avallava. Perché la paura, che è sempre ovviamente il più grande amico, no, della reazione, la paura che è anche una paura come dire, di molti cittadini e cittadine che in queste situazioni non ci stavano, che non ci volevano stare, no? O che semplicemente avevano paura di starci. Quella paura ovviamente porta parte dei cittadini italiani. E soprattutto, come diceva Salvatore, no, delle classi che poi erano le classi dominanti, a vedere di buon occhio la risposta violenta dello squadrismo fascista. E questo spiega, no, come mai poi il fascismo riesce con una certa facilità in Italia a prendere piede, perché in realtà. Cioè, come si è detto mille volte, no? La marcia su Roma, ma è chiaro che quella è una cosa che è quasi un'immagine fatta apposta per far vedere come loro arrivano, ma bastava veramente uno sforzo minimo per evitare che quella marcia portasse alle conseguenze che ha portato. Quindi è una situazione nella quale parte della popolazione italiana si rivede. E noi questo ce lo dobbiamo dire senza timori, cioè l'Italia fascista non era solo un'Italia che era stata violentata dal squadrismo fascista, era anche un'Italia che invece su quello squadrismo ci aveva giocato. E chi è che ci ha giocato? Sì, chi ha paura ovviamente, ma soprattutto, come dice Salvatore, le classi che erano quelle che dominavano, quindi questo racconto, no? Questo racconto, questa narrazione del fascismo che difende una parte del popolo, è una narrazione completamente fasulla, una narrazione che non ha nessun tipo di contatto con la realtà. Ciò non toglie, ripeto, che una parte dei lavoratori e delle lavoratrici italiane hanno convintamente abbracciato il fascismo, questo ripeto, ce lo dobbiamo dire con onestà, ma perché erano stati presi in giro, perché li hanno intortati, perché gli hanno fatto credere che si sarebbero preoccupati dei loro interessi, invece questo non avveniva mai. Non avveniva mai. Dopo, insomma, alle prossime domande, magari entriamo un po' più in profondità su quello che è stato il rapporto anche giuridico tra fascismo e lavoro e diritto del lavoro. Però banalmente c'è da dire una cosa, che è quella che diceva appunto Salvatore in premessa: il fascismo nasce e si sviluppa con un obiettivo molto chiaro, che è quello di tutelare la classe imprenditoriale, la classe imprenditoriale piccolo borghese. Che dal fascismo non prende altro che benefici, non prende altro che benefici. Quindi, quando c'è quel momento storico fondamentale che Salvatore citava nella domanda, no? Il 1925, quando ci sono questi patti, no? Il patto di Palazzo Vidoni e il patto di Palazzo Chigi. Questi due patti, che sono due patti essenziali per il, diciamo, lo sviluppo poi del fascismo, sono due patti nei quali da un lato si cancellano di fatto le altre organizzazioni sindacali. Attenzione, di fatto, non di diritto, nel senso che questa è una cosa che non si dice di solito, ma durante il fascismo in realtà la libertà sindacale non venne mai espressamente abrogata, proprio perché c'era un sindacato che doveva anzi essere molto rafforzato, che era appunto il sindacato fascista. Però nel patto di Palazzo Vidoni nel 1925, quello appunto che citavi prima, quello nel quale la Confindustria e la Confederazione Generale dei Sindacati Fascisti si riconoscevano come uniche organizzazioni di rappresentanza degli interessi degli imprenditori e delle maestranze, con quel patto tutte le altre organizzazioni sindacali, alcune anche già abbastanza forti, vengono messe ai margini. E questa è una delle più gravi colpe e responsabilità che ha anche Confindustria nella nostra storia, perché aver accettato quel patto, che per loro ovviamente in quel momento storico era di grande vantaggio, anche se poi, come hai detto tu, il Ministero del Lavoro scompare, eccetera, eccetera, tutto rientra nel Ministero delle Corporazioni, poi se volete ci torniamo su questo, però avere accettato e preso i benefici di quel patto significava in poche parole aver eliminato, diciamo così, la concorrenza, no? I veri sindacati, sindacati genuini, la rappresentanza genuina degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi quel mutuo riconoscimento di quel patto è l'inizio ed è essenziale per lo sviluppo del fascismo. Un'ultima cosa e poi chiudo. Magari me la chiedete dopo sul ruolo del lavoro proprio nell'ideologia fascista e di quanto era importante per loro. No, abbiamo parlato di come la violenza fascista pre e post regime, cioè pre regime, era stata importante soprattutto per soffocare i movimenti, diciamo, socialisti nascenti. C'era stato il Biennio Rosso, diciamo, gli operai avevano conquistato quel poco. E però, una volta andati al potere, una proprio delle prime leggi, dei primi provvedimenti del regime fu quello proprio di colpire i lavoratori organizzati o che si stavano organizzando o che volevano organizzarsi, proprio per la paura che prendessero sopravvento. E noi abbiamo un ministro Salvini che dal 2023 ad oggi ha precettato 7 scioperi. C'è questa tendenza di colpire sempre da parte delle destre il lavoro che potrebbe organizzarsi, che potrebbe dare fastidio alle loro politiche? In effetti la tua domanda si collega a quello che stavo per dire io prima alla fine, quindi credo che sia collegato bene. Allora, il fascismo, se voi andate a rileggere, non ve lo consiglio perché sono, diciamo, cose anche molto pesanti, però i discorsi di Mussolini, voi vi ritrovate citato un numero di volte impressionante la parola lavoro. Perché lo dico? Perché nell'ideologia fascista, che ricordo a me stesso prima che agli altri e alle altre, che nasce in Italia in questi termini, così come l'abbiamo conosciuto e come si è sviluppato, poi abbiamo brillantemente esportato nel resto del mondo. Però l'ideologia fascista si basa proprio sul lavoro, sul controllo del lavoro. Quindi il lavoro è il centro dell'ideologia fascista. Noi non ce lo dobbiamo mai dimenticare, non ci deve sorprendere questa cosa, sia nel fascismo, diciamo, del secolo scorso, sia nei fascismi moderni, perché il lavoro è il centro, è il luogo dove all'epoca più chiaramente di oggi si organizzavano le persone si incontravano fisicamente, perché questo è invece un tema della modernità, no? Il lavoro moderno purtroppo crea questa difficoltà molto maggiore per le persone incontrarsi fisicamente, e oltre alle difficoltà, no, di riconoscersi come persone che hanno gli stessi interessi e quindi di solidarizzare e creare organizzazioni che possano svolgere la tutela di questi interessi. Però al di là di questo, all'epoca invece il luogo di lavoro era il luogo in cui ci si incontrava fisicamente, in cui ci si parlava e c'era l'occasione, no, di poter anche creare movimenti, idee, semplicemente rispondere a quelle che sono alcune decisioni del datore di lavoro in maniera che possano essere più o meno violente. Insomma, quella cosa viene ben riconosciuta dall'ideologia fascista. In questo sono stati molto, molto attenti da sempre. E quindi l'hanno riconosciuta e l'hanno, in maniera finta ovviamente, l'hanno voluta portare dentro il fascismo. Quindi quando si dice, no, che il fascismo ha cancellato le organizzazioni sindacali, in realtà il fascismo quello che ha fatto è stato di cercare di far rientrare il più possibile all'interno della propria area di controllo il lavoro e chi lo presta. Ovviamente questo che significa? Significa che chi c'è cascato e ce ne sono stati tanti. Chi non ci cascava e quindi chi vedeva chiaramente che quello era un inganno, quell'inganno lì, ovviamente tu ci, che cosa vuoi fare? Vuoi rispondere no? Con lo sciopero, che è l'arma principale che hanno lavoratrici e lavoratori. E quindi se voi andate a vedere nella storia antica e moderna, antica intendo appunto del secolo scorso e attuale, se voi andate a vedere, l'attacco al diritto di sciopero è una costante di tutti i movimenti di destra, di tutti i partiti autoritari che ci sono in tutto il mondo, non solo ovviamente. Quindi se voi dopo me lo domandate, vi racconterò un po' come era strutturata, no, il diritto del lavoro fascista sul piano della libertà sindacale, della contrattazione collettiva, della giustizia del lavoro. Ma guarda caso, in materia di sciopero però non c'erano possibilità proprio di discutere. Lo sciopero doveva essere vietato perché dal punto di vista ideologico rientra perfettamente nell'idea del fascismo, perché se io dico, come dicevano i fascisti, che lavoratori e datori di lavoro avevano un solo interesse, che era un interesse comune, quello di interesse superiore della produzione nazionale, allora è chiaro che se noi abbiamo un interesse comune, perché dobbiamo confliggere, no? Dal punto di vista filosofico non fa una grinza, cioè noi dobbiamo puntare a un obiettivo comune, è chiaro che il conflitto può essere solo deleterio, oltre a non avere senso, può essere solo deleterio. E quindi io, da fascista, correttamente che faccio? Lo considero un reato. E quindi lo sciopero diventa, da libertà che era, diciamo così, nel periodo liberale, diventa un reato, diventa un delitto. Questa cosa ovviamente non significa che non si è scioperato durante il fascismo, questa è un'altra cosa che ci dobbiamo ricordare. Il diritto può dire quello che vuole, ma poi i fenomeni di massa si muovono e si sviluppano anche a prescindere, spesso a prescindere da quello che dice il diritto, per fortuna aggiungerei. Quindi il fatto che lo sciopero fosse un delitto, un reato, non impaurì tutti, e purtroppo per loro alcuni finirono in galera e lo sappiamo bene, o le violenze con cui si minacciavano, ritorsioni per loro, per le famiglie, per le organizzazioni che facevano il conflitto. Quindi diciamo, durante il fascismo, il ventennio in Italia, lo sciopero è un reato. Oggi la situazione, diciamo, è simile dal punto di vista logico, molto diversa dal punto di vista giuridico, perché in Italia lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione all'articolo 40, e quindi tu non puoi trasformare un diritto in un reato. ora parlo dell'Italia, poi se volete estendo un poco a quello che sta succedendo nel resto del mondo. Quindi non puoi trasformare giuridicamente un diritto in un reato. Che cosa è accaduto? Come è avvenuto tutto ciò? È chiaro che le precettazioni a cui facevi riferimento sono delle precettazioni di un ministro che è il ministro dei trasporti. Quindi lui può fare la precettazione solamente nel caso in cui ci sia uno sciopero dei trasporti che sono servizi pubblici essenziali, quindi sono regolati dalla legge 146 del 90, che è una legge che non regola tutti gli scioperi, ma solo gli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Allora, quando questi scioperi possono comportare un pregiudizio grave e imminente per il godimento dei diritti fondamentali che sono in contrasto con lo sciopero, quindi in questo caso la libertà di circolazione delle persone, in alcuni casi, se c'è questo pregiudizio grave e imminente, se la commissione di garanzia, che è un organo che ha creato la legge 146-90, permette, o meglio, avalla questo tipo di possibilità, allora il ministro competente può fare la precettazione. È evidente che Salvini ne ha abusato, questo diciamo non lo dico io, lo dicono i fatti, ma lo dicono anche i giudici. C'è stata qualche recente sentenza addirittura di tribunali amministrativi che hanno dimostrato come alcune precettazioni erano illegittime. Quindi sul piano proprio giuridico, al di là di quello che noi ovviamente possiamo pensare, no? Sull'opportunità politica di fare certe cose oppure no, e quindi anche sul piano giuridico, perciò dico che sul piano giuridico va fatta una riflessione e noi la stiamo facendo come comunità scientifica, perché non è pensabile che in un paese come il nostro, nel quale esiste una norma costituzionale che garantisce lo sciopero come diritto, per quanto sia stato regolato dalla legge 146 del 90, lo sciopero sia calpestato in alcuni casi in maniera anche molto evidente. La vicenda dello sciopero generale ultima è una cosa che secondo me cioè ci sono molte difficoltà a spiegarlo proprio giuridicamente quando parli con colleghi e colleghi, perché non c'era nessuna base giuridica per poter effettuare quella presentazione. Comunque, sul piano, come mai diciamo avviene questa cosa in Italia? Avviene perché il vento è cambiato. Ragazzi, il vento è cambiato, sappiamo tutti quanti, il vento è cambiato in Italia, ma è cambiato anche nel mondo. Per farvi un esempio banale, ma che è molto secondo me significativo, nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, no? L'OIL, che ha sede a Ginevra, che è una, è una agenzia dell'ONU, l'unica tripartita, quindi con la presenza anche di rappresentanze dei lavoratori e dei datori, nell'OIL esiste una convenzione storica che è stata firmata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è la Convenzione 87, che è una convenzione che difende la contrattazione collettiva e la libertà sindacale. Tutti quanti da sempre hanno considerato che là dentro ci sta anche il diritto di sciopero. L'hanno considerato all'OIL, l'hanno considerato il comitato che all'OIL si occupa di interpretare quella convenzione. Dal 2012, quindi sono già 13 anni, la parte degli imprenditori che sta nell'OIL si è svegliata e ha detto no, nella Convenzione 87 il diritto di sciopero non c'è, non solo il diritto, ma non c'è proprio lo sciopero. E questo, guardate, che è una cosa gravissima per quello che sta accadendo nel mondo, perché ci sono alcuni paesi in Asia, in Sud America, per i quali, che non hanno diciamo la garanzia giuridica che abbiamo noi dello sciopero come diritto, e quindi quella convenzione per loro è vitale perché se poi viene represso in maniera violenta lo sciopero o un qualsiasi tipo di conflitto nel loro paese, l'unica strada che hanno è quella di andare all'OIL e almeno rendere pubblico, no? E avere un po' di pressione internazionale su questo. Invece questa cosa dal 2012 non può più succedere, perché i datori di lavoro nel comitato che si occupa della Convenzione 87 si rifiutano e negano che in quella convenzione c'è lo sciopero. È una cosa drammatica per molti paesi. Questo è solo un esempio per dire che di fatto, no, il vento è cambiato. Io dico sempre una cosa alle studentesse e agli studenti a lezione. Dico, guardate, sapete da cosa si vede che lo sciopero non è più un diritto di fatto? Voi, se qualcuno ha, diciamo, qualcuno delle ascoltatrici e degli ascoltatori ha un figlio, una figlia, ci sono le chat delle classi, no? E quando c'è la possibilità la mattina che ci sia uno sciopero, se vi leggete i commenti di queste mamme e di questi padri, arrabbiati perché c'è la possibilità dello sciopero, è una cosa che, cioè, lì secondo me c'è scritto tutto, c'è scritto come mai il diritto di sciopero nel nostro paese e nel mondo intero è nella situazione in cui si trova, perché lo sciopero è diventato un disvalore dal punto di vista culturale proprio, e quindi su queste cose è facile fare le precettazioni. C'è anche una percezione proprio negativa dello sciopero, cioè ci è stato raccontato, sì. ci si racconta che ormai lo sciopero è soltanto per bloccare un paese e basta, impedendo alle persone di andare a lavorare. Cioè la narrazione che passa anche quando viene data la notizia è questa, cioè vengono i lavoratori, sono i cattivi che non ci fanno produrre. E che sì, che non ci fanno produrre e che a noi cittadini e cittadini ci impediscono di andare a lavorare, perché se ovviamente mia figlia non può andare a scuola, io mi devo organizzare. Questo ovviamente, no, è una cosa ben strutturata nella nostra società. È chiaro che siamo talmente attaccati a dover lavorare in condizioni correndo sempre, eccetera, che è chiaro che qualsiasi fastidio ti mette nel panico. Però soprattutto è diventato un disvalore dal punto di vista proprio culturale, noi come paese, ma nel mondo, direi probabilmente in molti altri paesi pure, quando sentiamo che c'è uno sciopero non ci preoccupiamo mai, nessuno si domanda: ma questi poveri cristi perché non vanno a lavorare e perdono una giornata di stipendio oggi con gli stipendi così bassi che ci sono nel nostro paese? Questa domanda non si fa più. Scusami una cosa, io diciamo, rifacendomi un po' a quello che stavi dicendo tu prima, immagino che l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Immagino che, come per iniziare così, diciamo, la Costituzione era perché il lavoro era stato martoriato durante il ventennio. E cosa, che tipo quindi di legame c'è in passato e oggi tra fascismo e lavoro? Guarda, il tuo riferimento all'articolo 1 e in generale alla Costituzione è molto corretto, perché quello che è cambiato dal 48 a oggi è che, allora, ricordiamoci una cosa, nel 48, vabbè, insomma, è quando entra in vigore, però durante i lavori dell'Assemblea Costituente mica c'erano solamente i partiti della sinistra, c'era un arco parlamentare molto ampio che non vedeva le sinistre come maggioranza. Quindi una Costituzione che arriva a dire l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, e che peraltro, apro e chiudo parentesi, ma è una dicitura quasi unica al mondo, non è una cosa da tenere scontata, perché anzi, dobbiamo essere molto orgogliosi di quella dicitura. Quella redazione, dicevo, dell'articolo 1 è una redazione che arriva alla fine di un dibattito molto, molto interessante. Io l'ho ricostruito proprio leggendo tutti i passaggi e gli interventi dell'Assemblea Costituente per scrivere un articolo proprio sull'articolo, su come è nato l'articolo 1, ma anche sull'articolo 35 e altri. E l'articolo 1 è estremamente educativo per diciamo il dibattito che c'è, perché ovviamente ci sono proposte molto diverse, però quello che emerge costantemente in tutti questi dibattiti è che l'intero arco parlamentare, che è quello dell'Assemblea Costituente nostra, che ricordo è un'Assemblea Costituente che ha in comune apparentemente una sola cosa, l'antifascismo, no? Ma dal punto di vista del progetto politico ci sono differenze immense, no? Tra quello che è la posizione democristiana e quella delle sinistre, i partiti liberali, eccetera. Eppure, oltre all'antifascismo, hanno in comune un'altra cosa, che è proprio l'idea che il lavoro deve essere al centro della società che si vuole creare. Questa è la grande cosa. Pensate che nella, è una cosa che mi ha fatto molto sorridere mentre leggevo questi interventi nell'Assemblea Costituente, che ora non mi ricordo qual era, ma c'era un costituente democristiano, poi magari se volete me lo cerco e ve lo dico, ma insomma, che addirittura propose, quindi un democristiano, non un pericoloso comunista, un democristiano che propose durante il dibattito sull'articolo 1 che chi non lavorava non doveva avere il diritto di voto. Cioè non, i diritti politici dovevano essere collegati al prestare un lavoro. Ovviamente nella sua mentalità prestare un lavoro era anche esercitare, essere imprenditore, ma ci sta, perché comunque produce qualcosa nella sua testa, ci sta. Però chi escludeva da questo? No, escludeva nella sua testa chi viveva di rendita. Perché l'Italia deve essere una repubblica democratica fondata sul lavoro. Sul lavoro. E quello mi è sembrato sempre estremamente illuminante di quello che era, no, quello che teneva insieme l'Italia dell'Assemblea Costituente. Cioè l'idea che si doveva lavorare tutti in maniera, diciamo, che il lavoro era l'elemento comune che ci doveva, che doveva garantire lo sviluppo di una società diversa da quella fascista e più giusta. Poi, ovviamente, ripeto, con progetti politici enormemente differenti da quello che diceva la sinistra e quello che diceva la Democrazia Cristiana. Ma pensate che Giorgio Lapira, no, che era un altro democristiano, Giorgio Lapira in un passaggio dice: l'Italia deve avere il volto del lavoro. Allora, questo secondo me è quello che differenzia in maniera enorme l'approccio culturale e quindi sociale delle forze politiche dell'epoca e quelle moderne, perché adesso il lavoro viene considerato sempre un regalo, no? Se ti do la possibilità di lavorare, tu mi devi solo ringraziare. E questo è il concetto che si trova sotto ogni norma di legge che noi troviamo, ma direi ora, cioè sarebbe riduttivo parlare solamente di quest'ultimo governo, perché è una storia che viene da lontano. Però ogni volta che voi trovate una norma di legge che regola il lavoro, vi trovate che di fondo ci sta un elemento, no? Dice, no, bisogna ridurre queste tutele, che ne so, in materia di professionalità, in materia di orario di lavoro, in materia di conflitto, in materia perché? Perché se tu riduci le tutele, ci sono più possibilità di avere opportunità di lavoro. Quindi l'idea è questa, no? Che il lavoro, cioè tu devi ringraziare quando ti offrono di lavorare. Questo, diciamo, confligge con molte cose. Io non sono un credente, però insomma, se fossi un credente potrei anche ricordare che c'è chi dice che la differenza tra l'approccio culturale dell'Italia, dell'Assemblea Costituente e quella attuale, che oggi non c'è più una posizione comune di tutte le forze parlamentari che si preoccupano di tutelare il lavoro. Anzi, se vogliamo dirla tutta, se c'è una posizione maggioritaria è quella di forze politiche che invece tendono a immaginare sempre l'impresa come valore e il lavoro come dire, un regalo che ti fanno, no? E quindi tu che devi solo ringraziare. Se tu vedi, se voi vedete le norme di legge degli ultimi, ripeto, non solo di quest'ultimo governo, ma degli ultimi 20, 30 anni, sono tutte norme che tendono a ridurre le tutele in materia di lavoro con la scusa del fatto che se io ti riduco le tutele aumenteranno le opportunità di lavoro perché le imprese saranno più interessate ad assumerti. Ma non, questa è una teoria economica assolutamente priva di fondamento, Qualcuno mi potrà dire: ma tu non sei un economista. Ho capito, però io sono uno che sa minimamente leggere i dati della realtà. Sono ormai, si può dire, 30 anni che si va avanti con queste politiche neoliberali o neoliberiste che vogliono ridurre le tutele per aumentare l'occupazione. Ma voi avete visto che è aumentata l'occupazione? Niente, si sono solamente ridotte le tutele. Mi ricordano quella cosa della famosa politica dei due tempi, che era una politica che veniva spesso riportata durante i periodi democristiani. Ci si pone un obiettivo: in un primo momento facciamo questo, poi nel secondo tempo faremo la cosa che era quella che interessava diciamo alle forze sociali, e invece il secondo tempo non arrivava mai. Noi siamo un po' nella stessa situazione, no? Il lavoro diventa anch'esso un disvalore, perché il valore lo porta l'impresa, e invece chi lavora deve semplicemente accettare quello che ti viene offerto. E questo è il diciamo un po' il come dire, l'idea delle destre moderne. Cioè, non hanno bisogno neanche più di tanto di grandi teorie dietro, come invece hanno provato a fare, perché poi l'ideologia fascista non è un'ideologia improvvisata, è un'ideologia che ha una teoria forte dietro. Invece quelle di adesso sono teorie neoliberiste, anche molto molto banali, prive di grosse argomentazioni, che poi vengono smentite dalla realtà. E che la realtà è questa: che noi non ci troviamo con più occupazione o più lavoro, ma ci troviamo con un lavoro sempre meno garantito, sempre meno, diciamo che sempre meno apprezzabile per le persone che lavorano. Ma noi siamo obbligati a lavorare, perché senza salario non si vive. Passiamo un po' all'attualità, a proposito di gesti simbolici. Che valore simbolico ha assunto l'assalto alla CGIL dell'ottobre del 2021 da parte dei fascisti di Forza Nuova? Perché individuare la CGIL, diciamo, il nemico principale? Quello fu un momento particolarmente duro, per quanto mi riguarda, degli ultimi anni. Non stiamo vivendo per un periodo storico facile, però quella scena, per quanto mi riguarda, è stata una scena estremamente dolorosa. Io collaboro moltissimo con la CGIL, con Corso Italia, per quanto riconosco, no, le grandi difficoltà e compromessi che obbliga la CGIL, ma insomma la CGIL rappresenta 5 milioni di persone nel nostro paese, una delle organizzazioni sindacali più grandi che c'è, quindi ovviamente, cioè non in Italia, dico a livello globale, un'organizzazione dal punto di vista numerico e politico estremamente significativa in Italia e a livello internazionale. Quindi ovviamente ha le sue difficoltà a dover tenere insieme tante, tante anime, tante persone dietro. Ma come mai la CGIL riesce a rappresentare queste tante persone? E come mai diventa il simbolo, no, da andare a violare? E perché, diciamo, ovviamente ci sono i sindacati autonomi che hanno una capacità conflittuale nel nostro paese, e che hanno una capacità conflittuale anche apprezzabilissima, secondo me. Però agli occhi delle destre, la CGIL fa più paura, questo non c'è dubbio, perché rappresenta tante persone, e perché riesce a tenerle organizzate con una struttura complicatissima. E quindi quelli vanno attaccati. Io personalmente l'ho vissuto proprio male, vedere che entravano dentro, che quella alla fine è anche casa mia, no? La casa di tutti. Io non sono iscritto alla CGIL, però ci collaboro in maniera molto, molto frequente. Però vedere che ti entrano dentro casa così, perché sì, perché ti devono dire Guarda, noi ormai abbiamo la capacità e abbiamo non solo la capacità, ma anche la tracotanza di poterti venire dentro casa senza paura. Perché? Perché il vento è cambiato. Vedere ogni volta si va a Corso Italia che ci deve stare fuori, ci devono essere poliziotti, esercito, non mi ricordo, dice, una cosa che fa male. Quella deve essere una casa aperta. Una casa aperta per le lavoratrici e i lavoratori, per andarci a discutere anche, non per forza per farsi rappresentare, per parlarci, per cercare di rafforzare un'organizzazione che, a prescindere da quello che si possa pensare della CGIL, è l'unica grande organizzazione di opposizione in Italia, per quanto mi riguarda, molto di più di qualsiasi altro partito, movimento politico. Quindi, secondo me, la scelta non è casuale, la scelta è una scelta mirata. Non riesco a immaginare che è arrivato così all'improvviso e qualcuno ha detto: ma dove andiamo? Andiamo alla CGIL, poteva dire, che ne so, andiamo all'associazione dei consumatori. No, andate alla CGIL. E fa anche paura perché la CGIL, che è un'organizzazione che rappresenta tante lavoratrici e lavoratori, si muove anche su un piano politico, come tutte le grandi organizzazioni sindacali. Poi le possiamo apprezzare più o meno, ma anche la scelta di portare avanti questi referendum che adesso la Corte Costituzionale ha ammesso, no? Anche quella è una scelta politicamente molto significativa, perché diciamo, preso atto che all'interno del nostro Parlamento non ci si riesce a ottenere niente, neanche la direttiva sul salario minimo è stata presa in considerazione, che era una cosa che invece noi siamo obbligati a dover trasporre in Italia, neanche quella. E allora l'unica strada, secondo probabilmente la CGIL, è stata quella di provare a chiedere alle persone di andare a votare. E io questo lo guardate, a prescindere da quello che si pensi, perché lo sappiamo tutti quanto è difficile portare le persone a votare. Secondo me quei referendum vanno votati. Questo, ecco, permettetemi questa parentesi. Quei referendum vanno votati perché non si sta votando per un partito, si sta votando per abrogare delle norme che fanno male a noi che andiamo a lavorare. Quindi io credo che la campagna che farà la CGIL sui referendum sarà una campagna che noi dobbiamo in tutti i modi appoggiare, perché deve essere un segnale, deve essere un segnale per, a parte per le destre, ma quello secondo me deve essere un segnale soprattutto per la popolazione italiana, sapere che noi come paese non siamo un paese che abbiamo accettato tutto. E che se ci sono delle cose sulle quali si può andare a prendere una posizione decisa, siamo disponibili a muovere le gambe e andare a votare quando c'è qualcosa che ci riguarda, che ci interessa, che ci convince. Se non andiamo a votare, io ci vado, però, perché penso che il diritto di voto sia una cosa indiscutibile. Però posso capire che le persone non vadano a votare perché non si sentono rappresentate da alcun partito politico. Ecco, questo io credo che deve essere un segnale per i partiti politici, perché gli devono dire: guardate che gli italiani a votare e le italiane ci vanno quando qualcosa li chiama. Scusami, non credi che oggi le destre, anche quelle diciamo più xenofobe, abbiano abbracciato il liberismo più sfrenato, soprattutto nei temi del lavoro? Ti faccio questa domanda perché, caso diciamo strano, come nel ventennio fascista, negli ultimi anni abbiamo assistito anche ad aggressione da parte di bande neofasciste in alcuni settori in lotta, come ad esempio gli operai della SDA di Carpiano in provincia di Milano, ai lavoratori migranti dell'Agropontino. Quindi sembra che ci sia questo scambio tra liberismo, capitalismo, destre e neofascisti. Quindi, quanto poi va ad incidere la manovalanza fascista in alcune realtà, che va a sopprimere qualsiasi tentativo di riscatto. Qua la risposta è facilissima. Le destre xenofobe l'hanno abbracciato convintamente il neoliberismo, ma perché gliel'hanno anche, come dire, regalato su un piatto d'argento, diciamoci pure, perché tutte le politiche neoliberiste che sono arrivate prima poi hanno portato a questo, no? Però ti ricordo la tua prima domanda, no? Quando tu parlavi del fascismo all'inizio, la prima domanda dicevi: fascismo che in realtà in Italia rappresentava gli interessi della classe imprenditoriale, soprattutto di quella piccolo borghese. E quindi è ovvio che in questo senso la storia si ripete uguale. Lo so, dal punto di vista teorico può sembrare, come dire, un poco paradossale, perché chi è xenofobo, chi è... diciamo, c'è questo paradosso, no? Per cui da un lato i movimenti identitari, no? I partiti identitari, la nazione, eccetera, eccetera, dicono di volersi sempre più chiudere, no? E di non ammettere l'ingresso, ma in realtà non è che non loro sono contrari agli ingressi e vogliono che l'Italia sia per gli italiani, loro vogliono che non entrino i poveri, perché quando arrivano le imprese, le porte sono aperte. Forse sono apertissime, e se dicono che arriva l'impresa transnazionale, multinazionale, che vuole aprire una sede a X in Italia, e però chiede di avere delle norme che siano più agevoli, che garantiscono di più le imprese, come se non fossero abbastanza. Guardate che i governi di tutti i paesi delle destre, governati dalle destre, schizzano in un attimo, le porte sono apertissime, perché quello che dici tu, in realtà diciamo, i movimenti identitari sono identitari solo per modo di dire, nessun tipo di identità, è tutto nascosto dietro in realtà a una cosa molto chiara: far entrare sì lo straniero, quello ricco, e farsi dominare dallo straniero ricco. Questo, diciamo, da questo punto di vista ci dovrebbero essere davvero dei movimenti identitari per dire: guardate, ma lo sapete che Amazon distrugge tutte le imprese italiane, le piccole imprese italiane sono state massacrate dalle imprese transnazionali. No, questo, scusami se interrompo, questa è la loro politica di opposizione, se loro così fanno. Sono identitari in opposizione, liberisti al governo. Certo, sì. Però è strano, veramente strano, cioè strano. Nella loro logica è normale sopprimere qualsiasi, come dicevi tu prima, qualsiasi sciopero, qualsiasi tentativo, in questo caso di riscatto di lavoratori e lavoratrici, come dicevo prima, di migranti dell'agro pontino, come, cioè, quello che ad esempio noi abbiamo nel corso di questi approfondimenti, intervistavamo Anna Curcio, ci siamo resi conto di come questi lavoratori e queste lavoratrici spesso siano lasciate sole e soli. Sì, ma infatti quei casi che tu hai citato prima non sono casi isolati, sono tristemente molto, molto frequenti, anche in Toscana ce ne sono state vicende di persone che sono andate, soprattutto nel Pratese, dove sapete bene che c'è una situazione imprenditoriale piuttosto complessa, molte imprese che sono al limite della legalità, per non dire altro, e quando ci si è azzardati, qualcuno si è azzardato a alzare la voce oppure a organizzare conflitti, ci sono state repressioni violente, anche qui non è strano. come dire, non è strano. Ripeto, non, questo non lo so sapere se c'è un disegno, come dire, politico, però che ci sia una situazione culturale che dà sfogo a chi, diciamo, del fascismo che hanno vissuto nel ventennio in Italia non sa neanche che cos'è e che vuole sfogare perché sì. Questa situazione culturale nella quale ci troviamo in Italia e nel mondo è purtroppo drammatica, e quindi sì, ovviamente dà adito a queste cose che sono inaccettabili in qualsiasi paese minimamente civile. Senti Antonio, noi volevo approcciarci alle morti sul lavoro. Nel 2024 sono state circa 1000, diciamo che è un trend che si mantiene quasi costante di anno in anno. E quando soprattutto i partiti conservatori, ma anche le destre estreme vanno al governo, le prime cose che fanno è quello di deregolamentizzare il lavoro, cioè togliere cavilli burocratici senza aumentare la sicurezza, perché considerano tutti questi soltanto come costi aziendali. E secondo te questo tipo di politiche non va a sminuire non solo la sicurezza dei lavoratori, ma anche i loro diritti? Sì, dei diritti ovviamente non c'è dubbio, l'abbiamo detto finora. La sicurezza poi è una cosa che ma come a tutti noi, no? Ci colpisce tremendamente, perché l'idea che una madre o un padre escano, o anche un fratello, una sorella, chiunque esca di casa e non torna, perché è andata a lavorare e non torna più, è una cosa che non entra nella mia testa, non entra, e non dovrebbe entrare nella testa di nessuno. E invece succede per almeno 3 persone al giorno. Ora, ovviamente, queste sono politiche sul lavoro che alimentano l'insicurezza, alimentano i rischi, perché diciamo, se voi vedete, molto spesso, se guardate i dati delle morti, ma anche degli incidenti, perché poi, cioè, non è che l'incidente è solo quello mortale, ci sono incidenti molto gravi anche non mortali, ma se voi vedete, purtroppo, molto spesso questi incidenti capitano a persone, ovviamente non sempre, ma a persone che o avevano lavori precari, oppure molto molto spesso ditte in appalto, quindi in catene di appalti e subappalti, dove la sicurezza è molto meno garantita, nonostante le regole sarebbero uguali per tutti. E io ripeto spesso che non è neanche tanto solo una questione di regole, ma ancora una volta una questione culturale, perché, come dicevi prima, no? Se la cultura è la sicurezza, è una cultura che dice la sicurezza è un costo, e va bene, se è un costo, è un costo, e allora, cioè, non capisco, io non la capisco la questione dal punto di vista giuridico, è un costo, è pure un costo che si devono accollare le imprese. E me la potrò mica accollare io che vado a lavorare. Ma me la volete garantire almeno che io, quando vado a lavorare, non debba infortunarmi, no, o peggio ancora morire? Ma neanche questo è un costo che è ammissibile dal punto di vista culturale. Io non lo capisco, ma ve lo dico davvero da giurista, non da cittadino. Non capisco perché questo, che è un problema di costi, ebbene, ma non capisco. Diciamo l'argomentazione, ci sarà all'interno della nostra Costituzione una gradazione dei valori? Allora, che mi state dicendo che la vita delle persone nella classifica dei diritti della nostra Costituzione viene dopo la libertà di impresa? Se mi state dicendo questo, state dicendo qualcosa che è impreciso dal punto di vista giuridico e che dal punto di vista politico è inaccettabile. Senti, io ritorno sugli scioperi, perché nel DDL sicurezza 1660 ci sono delle norme che fanno, cioè che tendono ad inasprire le pene per chi lotta per mantenere il proprio posto di lavoro. Quindi dallo sciopero ai blocchi stradali, ai picchetti, alla non violenza, la famosa norma anti-Gandhi, tutto viene considerato socialmente pericoloso. E secondo te, cosa e come bisognerebbe organizzare per attivare una resistenza a questi ulteriori soprusi? Io sto organizzando con altri due colleghi, un giuslavorista e un penalista, stiamo collaborando per fare un numero della rivista giuridica del lavoro proprio sul DTL sicurezza. Perché è così grave quel disegno di legge, secondo me? Allora, quel disegno di legge non riguarda lo sciopero, no? Ma riguarda tutte le forme di conflitto che sono collegate allo sciopero. È chiaro, non puoi fare una legge che vieta lo sciopero, perché, ripeto, c'è l'articolo 40 della Costituzione, lo sciopero è un diritto, quindi non è in discussione. Ma allora che cosa fa quella norma? Come dicevi tu, dal punto di vista proprio penale, considera reati alcune manifestazioni del conflitto che sono sempre state collegate all'esercizio del diritto di sciopero, il picchettaggio, fatto un esempio, il blocco stradale, no? E perché? Perché lo sappiamo bene che lo sciopero purtroppo è sempre meno efficace nel nostro ordinamento, nel nostro paese, per le cose che ci dicevamo prima, perché dal punto di vista giuridico è stato limitato nel settore dei servizi pubblici e perché dal punto di vista culturale è diventato un disvalore, no? Però quali sono gli scioperi, no, che vulnerano, che riescono a essere vulneranti, che riescono a essere forti? Quelli nei quali a un certo punto si va un po' oltre, no, le regole, e quindi il blocco stradale, e quindi il picchettaggio, e quindi l'occupazione della fabbrica, pensate al caso GKN o tante altre cose. Questo che si vuole colpire, anche perché, ripeto, non si può colpire lo sciopero come diritto, perché esiste ancora la Costituzione. Ma questa cosa non è una cosa solamente italiana. Nell'Argentina di Milei si è fatta la stessa cosa. La stessa cosa. E l'Argentina, che ha una, diciamo, dal punto di vista giuridico è abbastanza diverso dal nostro paese, per la storia politica peculiare, no, che ha l'Argentina. Però è un paese nel quale si fa il conflitto in maniera molto frequente e anche molto efficace in alcuni settori. Ci sono alcune organizzazioni sindacali di alcuni settori che riescono a bloccare per settimane la produzione e anche in un paese che in una situazione politica così difficile come l'Argentina riescono a ottenere degli aumenti salariali sinceramente significativi. Quindi a dimostrazione che il conflitto, se riesce a essere vulnerante, funziona ancora. Non è vero che lo sciopero è morto, perché nella nostra società non c'è più spazio per lo sciopero. La questione è che proprio su questi piani, no, nel nostro paese, ma anche in altri, si cerca di colpire tutte quelle che noi chiamiamo corollari del diritto di sciopero, no? Che sono appunto delle attività che spesso sono collegate, quando non sono addirittura organicamente la stessa cosa, dello sciopero. Picchettaggio, guardate, il picchettaggio è una cosa che avviene praticamente da sempre, ma basta ricordare quando andavamo a scuola i picchetti li facevamo pure noi, no? Per non far entrare le ragazze e i ragazzi che volevano comunque entrare a scuola quel giorno. Però come viene venduta questa cosa dal punto di vista giuridico? Viene venduta che tu stai reprimendo la libertà di lavorare di chi invece ha il diritto, e quindi tu gli stai impedendo di andare a lavorare. Sono dinamiche che conosciamo e che sono, come dire, anche un po' inevitabili all'interno delle organizzazioni, perché le persone sono molto diverse. Però a rientrare tutto nel diritto penale significa spostare l'equilibrio tutto da una parte e quindi incitare a denunciare chi diciamo storicamente, tradizionalmente, ha sempre fatto questo tipo di cose, perché come si diceva prima, no? Cioè, se lo sciopero è un disvalore, allora lo sciopero che diventa vulnerante è solo quello sciopero che blocca tutto, e a quel punto le persone magari aprono un po' gli occhi, dire, ma questi per arrivare a questo livello di disperazione che cosa staranno sopportando? E quindi questo, quando il conflitto sfocia a quei livelli, ovviamente lì bisogna reprimere, e il DDL sicurezza si muove su quel piano lì. Sicuramente c'è un come dire, le famose politiche sociali del fascismo, o comunque di questo, diciamo, governo di destra che dovrebbe dare prosperità agli italiani, no? E invece non è altro che propaganda, perché poi va ad attuare delle politiche di lacrime e sangue proprio. Esatto, di lacrime e sangue, esatto. Cioè, sui servizi pubblici, sì. Io vi invito veramente, sì, ad andare a vedere che sta succedendo all'università. Cioè, i finanziamenti che si sono ridotti alle università pubbliche è una cosa che grida veramente vendetta, perché è un modo per ridurre i finanziamenti pubblici e per spostare, come è avvenuto per la sanità, no? Tutto verso il privato. Noi ne pagheremo, diciamo, le conseguenze per decenni. Ma infatti, secondo te, tu prima hai parlato di, hai fatto accenno alla scuola, no? C'è secondo te un legame tra la riforma, diciamo, gentiliana del ventennio, ovvero quella che educava i fascisti di domani, ma che non era altro che dividere sempre più le classi aristocratiche e borghesi dal popolo, e la volontà di questo governo a far sì che la scuola sia al servizio dei bisogni del capitalismo e dell'impresa? Secondo me questa cosa arriva da, anche questa non è che l'ha fatta Valditara, detto proprio chiaramente, nel senso, le riforme di Valditara non mi convincono, cioè non solo non mi convincono, mi sembrano discutibilissime, però purtroppo quello che dici tu è una cosa che arriva da lontano, no? Il collegamento tra... Ma sì, con la riforma Renzi. Tra la scuola e l'impresa è una cosa che per me è deleteria, perché io sono sempre stato dell'idea, beh, ma forse perché sto invecchiando, ma diciamo, la cultura, come diceva Gaetano Salvemini, no? È il superfluo essenziale. Allora, se noi tutto quello che studiamo deve servire a qualcosa, no? Come quelli che dicono, ma tu vai a fare il liceo classico, a che ti serve studiare il greco? Ma non è che tutto quello che studi ti deve servire per qualcosa al lavoro, ma qualcosa potrà servire semplicemente a me, perché la mia mente si apra, perché io possa essere aperto a diverse culture, a diverse... Ho fatto l'esempio del greco perché era una lingua che a me mi faceva impazzire quando ero giovane e che mi piaceva moltissimo. Ma per dire, adesso no, Valditara se ne è uscito con la storia del latino alle medie, come se fosse, no, una cosa che deve essere della destra. No, guardate, il problema vero è quello che dici tu, è che la scuola... Non, poi, diciamo, ci sono ovviamente scuole che ti devono indirizzare, se vuoi, verso una cosa che ti può piacere dal punto di vista professionale, ma la scuola è una cosa che fanno le ragazze e i ragazzi dai 6 ai 18 anni, ma dai 6 ai 18 anni noi non dobbiamo pensare a lavorare, noi dobbiamo pensare a essere felici se possibile, e poi a studiare delle cose che ti possano aiutare nello sviluppo della tua personalità, nella tua crescita. Ma io non ne posso più di tutte queste cose. Ma guardate che l'università, da questo punto di vista, subiamo delle pressioni fortissime, anche in questo senso, perché dicono, ma se tu questa università, poi quante delle laureate e dei laureati trovano posto entro X mesi, e questo comporta poi un aumento o meno finanziamenti dai pubblici? No, guardate che non è tutto questo, cioè che la cultura è un'altra cosa. Io almeno, diciamo, questa è la mia prospettiva. La cultura dovrebbe essere un'altra cosa, ovviamente, è anche, come dici tu, no, al servizio di un ideale, che si fanno certe dichiarazioni o certe riforme, come quelle due che hai citato tu, no? Compresa quella di Renzi. Però ecco, io su questo ho un briciolo di ottimismo, perché molte persone che insegnano nelle scuole lo fanno ancora con una passione e con una voglia, nonostante gli stipendi che hanno, con una passione e con una voglia che secondo me non c'è riforma che li riesca a far... Oggi si abbattono, ci abbattiamo tutti, anche noi all'università ci siamo molti... Però, ecco, io non ho grande fiducia nel diritto. Io credo che il diritto, e io insegno diritto, ma penso che il diritto non riesce a trasformare la realtà, non più di tanto. E quindi le regole possono mettere quello che vogliono, certamente mettono i bastoni tra le ruote e ti mettono in maggiore difficoltà, e nei decenni creano cultura, e cultura negativa in questo caso, no? Però nel frattempo sono fiducioso che io non credo che il nostro paese sia un paese veramente di destra come ci viene dipinto, ecco, diciamo così. Io penso che c'è una parte troppo silenziosa del paese che vive e pensa diversamente, e penso anche a scuola. Noi siamo arrivati alla fine, però prima di salutarti ti tocca rispondere alla nostra domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti, e te la faccio fare da Raff. Secondo te che cosa significa essere oggi fascisti nel 2025? Io tendo a distinguere il fascismo da quello che stiamo vivendo oggi in Italia e nel mondo. Cosa significa essere fascisti oggi? Secondo me significa non avere neanche studiato la storia. Secondo me significa non avere il minimo di sensibilità e di solidarietà nei confronti dell'essere umano che ti sta a fianco. E diciamo, io, se sono nato, lo devo al fatto che mio nonno non era fascista, e quindi quando disertò per non andare in guerra, lo presero e lo stavano portando su un campo di concentramento. E lui si lanciò dal treno a Terracina e poi si fece, non so, 7, 8, 10 giorni per tornare a casa sua. E poi, dopo 2 anni, nacque mia mamma. Quindi se mio nonno non fosse stato così coraggioso e antifascista, io non sarei nato. Quindi per me essere fascisti significa veramente... Vorrei dire una cosa banale, come parlano le mie figlie: significa essere cattivi. No, c'è qualcosa, cioè è vero, no? Le destre che sono oggi al governo non sono paragonabili forse al fascismo, però tendenzialmente hanno paura del diverso, come dicevi tu prima, no? Cioè, dei migranti, della comunità LGBTQIA+. Ma certo, ma sì, ma non c'è dubbio. Io distingo le cose perché è diversa la situazione politica nazionale e internazionale rispetto all'epoca. Siamo in una situazione nella quale, diciamo, dal punto di vista politico e economico è tutto interconnesso, tra il livello nazionale e il livello internazionale sono diventate una sola cosa. All'epoca era tutto diverso, no? Ci si poteva chiudere nei propri confini, come ha fatto Franco con la Spagna, e rimanere tutto sommato, ovviamente sì, i rapporti ce l'hai con i governi che ti possono essere amici, ma oggi tutto questo è ridicolo. Tutto questo oggi non ha senso perché i paesi sono felicemente ibridi. Siamo tutti ibridati, siamo tutti mescolati e quindi è tutto ridicolo voler. Ripeto, per me sono tutti spot che servono a richiamare il voto di chi ha paura, di chi, o di chi è Esatto. cattivo, come dicevo prima, no? Perché ci sono pure le persone cattive nel mondo. Antonio, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite a Il Nemico. Grazie veramente di cuore. Grazie veramente, grazie. No, grazie a voi. Una lunga chiacchierata, però l'ho fatta una testa così, però quando mi No, invitate è no, una no, visita no, no. abituata. Grazie ancora. A tutte e tutti, grazie.